Vera e propria allucinazione sonora, quella di Nazona Rai con The Most Painful Time, come portare un tour de force pazzesco a livello soprattutto batteristico da parte di Oran Embarci, che sembra veramente invasato a un certo punto, e portare proprio all'estremo quasi una psichedelia deforme, assolutamente allucinata, portata proprio all'estremi con un O'Malley più infernale che mai, con strumentazioni classiche, ma che vanno a impattare ovviamente dentro un suono che macera psichedelie su psichedelie, psichiatrie anzi, quasi per meglio dire, un Cageino che ovviamente è sempre come dire ieratico, una sorta insomma di guru impazzito dentro una macchina sonora appunto di pura allucinazione, che in questo The Most Painful Time non disdice, anzi conferma quanto già in dissoluzione con il primo Nazona Rai. E se di dissoluzioni del corpo rock, proprio quasi di quei fazioni, se non addirittura insomma forme maceriche che appunto diventano poi strani paesaggi post tutto, probabilmente Dead Sea australiani, come d'altronde anche Oran Embarci, ci andiamo a prendere da la loro ultima fatica, anche se poi in realtà è una raccolta di esibizioni live, The 12 Spectable, e qua veramente siamo oltremodo fuori ogni dissoluzione, perché con Dead Sea sembra veramente di stare dentro un tourbillon di forze impossibili da controllare. E se appunto le psichedelie trattate in Zona Rai sono arrivate a un punto di non ritorno con Dead Sea, si va proprio una sorta di Dark Star con tra l'altro pezzo che si chiama Permanent LSD, quindi ho già detto tutto con e hanno soprattutto loro, si sono chiariti perfettamente, come se d'altronde ce ne fosse bisogno, da 20 anni insomma che anch'essi fanno musica o rumore, insomma qualcuno insomma più che altro definirebbe le organizzazioni sonore o le dissoluzioni appunto organizzate o meno di Dead Sea, organizzate come, per fare queste musiche bisogna soprattutto avere una grande disegno, una grande programmacità mentale. Di fatto insomma Permanente LSD ci riportano dei Dead Sea appunto dentro quella assoluta musica che fanno, qualsiasi insomma sia il vostro carattere nel considerare appunto musiche o non musiche. Dead Sea. frequenze in dissoluzione, rock che oramai esiste soltanto come neanche fantasma, ma come zombie di se stesso, e una psichedelia o quello che può, insomma, vagamente ricordare un suono psichedelico che è veramente devastato e porta, insomma, Dead Sea molto lontano in termini di organizzazione del caos, della cacofonia, tra, insomma, senz'altro nel rock noise, gli artisti che più hanno sono riusciti a portare alle estreme conseguenze, appunto, anche un noise rock che per molti versi, insomma, ha dato anche frutti interessanti, addirittura anche in termini così di non commerciabilità, se non parliamo, insomma, di certi Sonic Youth che senz'altro, insomma, perdevano l'aspetto noise per darsi, insomma, più a un rock definito, insomma, ovviamente memore delle loro passate stagioni, insomma, legate alla no wave o alla post tale, e quindi anche a noise chitarristico di Glenn Branca, di Rich Chatham, eccetera. Dead Sea, e forse prendendo anche come spunti i personaggi che ho appena citato, e decostruiscono ancora di più, avendo un senso comunque e compiuto e veramente magistrale della composizione legata appunto al rumore, in questo caso rock. È uno dei personaggi che sicuramente più nell'occhio del ciclone per quanto riguarda una certa critica, per quanto riguarda un certo linguaggio legato alle sperimentazioni elettroniche. Adesso non siamo più nel territorio del rock, per quanto, insomma, tante virgolette potremmo mettere su una zona Ranaie e Dead Sea. Ben Frost viene per molti versi da una drone music molto sensibile al noise, ma anche a momenti di ambientazione vera e propria. 451 frammenti sonori, più di una volta è passato By The Throw, un disco decisamente importante per quanto riguarda un modo di concepire l'elettronica con quel linguaggio impro e anche, se vogliamo, poi strumentalmente acustico, che viene trasformato appunto da Ben Frost in By The Throw. Con questa Aurora del 2014 siamo più veramente sul piano elettronico. C'è anche una specie, insomma, di follia che attraversa il disco nel trattare anche vaghezze sinfopop, quasi si potrebbero definire tali, quasi una specie di escrescenza mostruosa dentro questo Aurora che si sviluppa anche con anche percorsi che partono da dissoluzioni quasi materiche del corpo pop, anche quello più commerciale. Sentirete, insomma, dei momenti che ricordano sì, pompe magne, insomma, mica tanto di molto pop attuale, che appunto pompa su effetti e effettistiche che non si sono mai perse, anzi adesso, come dire, vanno di gran moda, spingendo molto sul digitale. Bene, Ben Frost ne fa, insomma, materia delirante, se vogliamo, in questo Aurora.